Palla Spicchi con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Gigi Borghi in redazione, Peter Bescapè in regia. Oggi non c'è Flavio Suardi, ma c'è naturalmente coach Dan Peterson. Ciao coach. Ciao amici sportivi. Flavio Suardi dov'è? Vacanza, credo. Non so. Perso le tracce, poi lo cerchiamo. Bravo. Stiamo anche aspettando un ospite che sta arrivando in macchina da Cantù. Poi vi dico chi è, lo aspettiamo qui in studio. Sta parcheggiando, quindi puntata strana oggi, coach. Intanto abbiamo, invito gli ascoltatori naturalmente come sempre 800 24 00 24 per telefonare. Adesso sappiamo finalmente chi si giocherà l'Eurolega a Berlino. Le quattro che vedranno lì la coppa sul tavolino, coppa da prendere. Conosciamo anche grosso modo i nomi di chi giocherà i playoff NBA. Di questo parlerei oggi con te. A cominciare, non ti chiedo pronostici, lo prometto, almeno per il momento. Me le chiedono tutti, figurati. Ok, uno più. Io ti voglio bene, evito. Panathinaikos, Olympiakos, derby greco, prima semifinale, CSKA, Barcellona. Comunque due grandi partite. Una grande partita è stata anche quella vinta ieri sera dal Barcellona con il Tau, 78-62, Basile Virgola, ma una grandissima difesa in 30 minuti, ma una grandissima difesa sugli esterni del Tau. Io sono sorpreso per due motivi. Uno, avevo visto Tau qui a Milano, che è stata una squadra proprio in grande spolvero, cioè io avevo pronosticato loro addirittura a vincere tutto. Poi quando hanno vinto la primissima lì a Barcellona, è fatto, vanno loro a Final Four e vincono tutto. Quindi per Barcellona da rimontare tutto e vincere le quinte partite nella maniera in cui hanno fatto, c'è più 20 in gara 4 e più quasi 20 ieri sera, cioè la squadra è venuta fuori nel momento topico, e complimenti a loro. Quanto ha centrato Ivanovic, ex del Barcellona, non amatissimo da molti, Basile compreso mi risulta, quanto ha centrato la vendetta del Barcellona su Ivanovic? Well, un pochettino, però guarda, io non sono stato mai super tifoso di Ivanovic, perché lui trasferisce tanto stress alla sua squadra. Vero. Però quest'anno l'ho visto lui in maniera diversa, più tranquillo, più trasmettitore di fiducia, e la squadra ha giocato da Dio. Quindi io sono sempre il primo a cambiare parere se ci sono nuovi dati per cambiare. L'ho visto bene, però è chiaro che la società Barcellona non voleva assolutamente essere eliminata da lui. Certo, coach, ce la può fare il Barça con il CSKA? Non è un pronostico mascherato quello che ti chiedo, però insomma è una bella partita questa. Bella, stupenda. Guarda, Barcellona può anche vincere. Io dico CSKA solamente perché esperienza, Messina, quello lì, ma sono il primissimo a dire che la squadra più in ascesa in questo momento è Barcellona. Derby greco come lo vedi? Vado a Panathinaikos solamente per Obradovic, ma anche qui, guarda, il campionato greco è davanti Olympiakos, quindi sostanzialmente sto facendo due pronostici contro il pronostico, perché sulla carta, cioè il momento delle squadre, bisogna andare con Barcellona e Olympiakos, che stanno viaggiando a mille, però vado con i due migliori coach di Europa. Sono d'accordo con te, è anche vero che giocare un derby in semifinale è una cosa estremamente pericolosa, perché è molto difficile vincere il derby e poi è molto difficile vincere il derby e poi vincere la coppa. Ma è impossibile. Io sono super contrario a questo, alla ULEB, la Eurolega continua a farlo. Sai quanti Eurolega è costato alle squadre italiane? Ti ricordi? Sì. 0-4. Come no? Fortitudo va a vincere supplementare con Siena e poi prende 44 due giorni dopo da Maccabi, ovviamente Maccabi. Però avevano già vinto a Maccabi quell'anno, cioè, no, poi Benetton Treviso che vince Mike D'Antoni, che allenava, batte la Virtus, poi perde, o la Virtus batte Mike, poi perde la finale. L'anno dopo Benetton batte una squadra italiana, Siena, perde la finale a Barcellona. Ma dai, hanno costato l'Italia tre o quattro di queste cose. La parola chiave è stress. Troppo stress, energie mentali. Quante volte puoi giocare tu la partita dell'anno? Due volte in tre giorni? No, non è possibile. Bravissimo, certo che è così. Coach, diamo un'occhiata all'NBA, poi ti chiedo anche una cosa su Bianchini, perché ho letto un'intervista in settimana che mi è piaciuta molto. NBA sappiamo grosso modo quasi tutto, la delusione dell'anno è Phoenix, e credo che tra i Cactus avranno capito quanto è grande Mike D'Antoni. Io credo, mi auguro che l'abbiano capito. O no? Hanno capito, ma loro capiscono ben poco, perché hanno deciso di licenziare Porter, troppo tardi, perché Gentry, che è un allenatore, cioè, questa è la quarta squadra che è nell'NBA, però non è che io faccio delle pazzie per lui, è uno nella media, ok? Però la squadra ha cominciato a vincere un pochettino di più con lui. Dovevano farlo prima. Adesso dicono che vogliono confermare Gentry per l'anno prossimo. Io dico, questo è uno sbaglio. Cioè, bisogna rivoluzionare tutto. Non Gentry, non Shaquille O'Neal, non Steve Nash, non Grant Hill. Bisogna disfare tutto. Hanno sbagliato tu pensa che hanno dato via Sean Marion, sì, per un giocatore versatile, agile, completo, per Shaquille O'Neal, un pilone piazzato lì. Hanno dato via Boris Diaw e Raja Bell a Charlotte, che Charlotte ha fatto boom con questo, per Jason Richardson, un ex giocatore. Cioè, loro sono veramente dei pazzi. No, è l'anno per rivoluzionare la squadra, per rifare la squadra, una squadra che comunque è finita, l'impressione, il giorno in cui è arrivato Shaq. Credo che sia finita lì, no, la storia di Phoenix. Caro, l'anno scorso, il giorno prima dell'arrivo di Shaq, erano primi nell'Ovest. Arriva lui, finiscono sesti, escono al primo turno di playoff. Perché lui ormai è una zavorra, non è più un giocatore. Coach, voglio chiederti una cosa. Bianchini in settimana ha detto, leggevo un'intervista su Superbasket di Stefano Valenti, cosa che aveva detto anche ai nostri microfoni, le aveva dette anche a te di persona. Negli anni '80, beh, sappiamo, no? Le tue diatribe con lui, e Bianchini dice, scrivevano di noi anche i quotidiani politici, adesso il giorno di gara 3 contro il Panathinaikos trova appena una breve persiena, ma mi chiedo, il basket sa comunicare? E mi rispondo no. Poi dice Bianchini, parla chi viene già a messa, noi dobbiamo uscire dalla chiesa, i quotidiani parlano di NBA e non del campionato, questa è una sconfitta. Sei d'accordo con il tuo vecchio rivale? Il problema è che Bianchini è 10 volte più bravo di me a esprimere queste cose in Italia, cioè lui, e poi lui ha la forza di dirle, perché oggi, anche parlando con Bianchini, e ti dico questo non per polemizzare, ok, con gli allenatori di oggi, sembra che ci sia fra tutti loro un patto di non aggressione. Tu non, cioè, io, diciamo, Carlo, io e te siamo due allenatori. Carlo, tu non parlare male di me e io non parlerò male di te, e tu dici che io sono bravo. Cioè, sembra così, ok? Cioè, ai tempi, cioè, poi non solamente sulla stampa, c'è stato una volta, io e Bianchini siamo stati ospiti a Ennio Vitanza alla RAI, sì, e per poco non andiamo ai pugni, ok? Cioè, proprio il giorno dopo, palazzo pieno, ok? Quindi cioè, non parliamo, ma non è che abbiamo inventato io e Bianchini questo. Rubini con Taurisano, Rubini con Varese, cioè proprio tutto, cioè, e la gente veniva a vedere le partite. Non dico, voglio stare attento con questo, perché nel calcio c'è tutto questo e poi c'è la ma violenza. Appunto, io non, no, ma cosa, però vedi, come Mourinho esce dal coro, ma per dire Mourinho, vedi che polverone che scatena. Cioè, tu e Bianchini dicevate le cose che dice Mourinho oggi, certo, nella pallacanestro, no? Ma Mourinho, cioè, ovviamente Mourinho qualche volta va oltre, ok? Ci sono certe cose che io, fossi io il suo consigliere, dico, ehi, José, 99% va bene, questo 1% qui elimini. Però lui è il Bianchini di oggi. Lui è il grande, in tutti i sensi, comunicatore. Lui è il movimento calcistico in Italia. Lui è la voce, la faccia, la personalità di tutto. Se lui veramente va via dall'Italia a allenare di nuovo in Inghilterra, questa sarà una perdita. E tutti i giornalisti che lo criticano oggi piangeranno, i telecronisti, per la sua assenza, perché lui è veramente, se tu che sei, caro, sei un giornalista, lo voglio tutta la vita, legato al calcio, contratto a vita, perché se va via lui, cosa fai lui tu domani, tu dici, non lo so, cosa faccio, devo mettermi a lavorare, coach. Esatto, sono disperato, mi suicido, non so cosa dire, è fantastico lui, coach, raramente sono in disaccordo con te, non succede nemmeno questa volta. Okay, ci siamo, sentiamo sintonizzati, patti di non aggressione fra di noi, ok? Quindi... no, una volta litighiamo, se no si abbassa l'audience, vero, una volta ci mettiamo d'accordo e litighiamo, ci sentiamo, buona Pasqua, coach, ci sentiamo venerdì. Sportivi, ciao, saluti a tutti, happy Easter to everybody, ok? Grande coach, ciao, grazie, ciao. Grazie coach Peterson. Palla spicchi. Ecco che è arrivato il nostro ospite, lo ringrazio di cuore, è Luca Dal Monte, coach di Cantù, grazie per essere qui. Grazie, coach. A voi, grazie a voi. Soprattutto perché si è catapultato qui appena finito l'allenamento, e quindi grazie di nuovo, grazie dopo. Come è andato l'allenamento? Tutto ok? Abbastanza bene, direi che potrei essere più contento, ma sono contento di essere qui con voi. Oggi puntata che, insomma, Cantù nel DNA, anche perché c'è collegato con noi Antonello Riva, che saluto. Ciao Antonello. Ciao. Che adesso... Saluto a Dalmonte anche lì con voi e a tutti i radioascoltatori. Ciao Antonello. Antonello Riva, che avevamo chiamato anche perché adesso lavora a Veroli, lo sapete, GM di Veroli. Ieri c'è stato un turno di campionato, terz'ultima giornata, con un verdetto Roseto retrocessa, Varese ha una vittoria dalla Serie A e Veroli seconda, che si prepara per i playoff. Sì, mi giungono notizie che ieri il finale di partita a Varese non sia stato uno dei più tranquilli. Sembra infatti che la squadra brindisina presenterà ricorso, perché sembra che il canestro allo scadere sia giunto proprio al di là del tempo regolamentare, quindi ho paura che anche in Lega 2 succederà qualcosa che si è già verificato nella massima serie, ovvero sia un ricorso per un canestro che è arrivato, lo ripeto, dopo il termine del 40° minuto. Un altro casino, abbiamo parecchi problemi con i cronometri, coach Dalmonte. No, il problema vero è che secondo me la sentenza di Fortitudo Montegranato ha creato un precedente, certo, che fino ad oggi non era stato preso in considerazione, un errore tecnico che può essere causa di un motivo per ripetere una partita, e quindi credo che poi chiunque di fronte a un errore tecnico abbia il diritto di chiedere eventualmente perlomeno l'esame di rifare la partita. Sì, magari con dei tempi un po' diversi. Il problema è che non possiamo fare legge ogni volta che succede qualcosa, bisognerebbe avere un codice già predisposto, pronto a stare di fronte ad ogni evenienza. Invece succede qualcosa e non siamo preparati, ci inventiamo le leggi di conseguenza e quindi poi portiamo avanti sempre a episodio per episodio tutta la casistica. Non solo nella pallacanestro, questo lo sappiamo. No, ma sai, lo sport è lo specchio della vita sociale. Bravissimo. Antonello, Veroli dopo la Coppa di Lega per andare dove? Giù la maschera. Diciamo che è una società che è abituata a fare promozioni su promozioni, perché se 7 anni fa addirittura era una squadra che gritava nel campionato di Serie C1, quindi c'è da dire che, ecco, alle spalle c'è un proprietario molto solido a cui sicuramente un'eventuale promozione non fa paura, però ecco, non scordiamoci, come diceva all'inizio, oggi siamo qui a dire che la promozione dovrebbe arrivare dopo, passando dai playoff, e nei playoff penso che le altre squadre, ci siano altre squadre che sono forse un pochino più attrezzate di noi per riuscire ad arrivare in fondo con un risultato positivo. Tonello, ti volevo chiedere ancora questo prima di salutarti. È stata un po' la settimana, sono i giorni di un ragazzino di 18 anni che segna 10 punti in una partita contro Roma, un paio di bombe importanti sul fine del primo tempo, Daniele Sandri, anni 18 per l'appunto, della Benetton Treviso. Poi io penso a te, 19 anni, se non ricordo male, nell'81 vincevi lo scudetto e l'anno dopo la Coppa dei Campioni da protagonista. È chiaro, è inutile fare della demagogia su storie diverse, tu eri Antonello Riva e non tanto replicabile nel basket italiano, però mi viene da dire che ha ragione Meneghin dicendo che comunque gli italiani devono cercarsi lo spazio, a volte magari anche con quella cattiveria che oggi non si vede più. Sono pienamente d'accordo con il nostro presidente federale. Certamente è più difficile per i giovani oggi, perché avere davanti 4 extracomunitari lo può, avete davanti a voi un signor allenatore, ve lo può confermare, non può far altro che confermarlo anche lui, che sicuramente avere 4 extracomunitari, 2 comunitari, addirittura poi qualche italianizzato che arriva da oltreoceano, sicuramente per i nostri giovani è un pochino più difficile rispetto alla mia era, dove ecco, avevo solo 2 extracomunitari davanti e poi lo spazio era per tutti gli italiani. Questo non toglie che la prestazione di questo ragazzo è forse il messaggio più positivo che abbiamo avuto quest'anno. Questo dimostra che probabilmente la nostra scuola, se non ce n'era bisogno di dimostrazione, ma ecco, la prestazione di questo ragazzo lo conferma ulteriormente che la scuola italiana poi non è così bassa, anzi io penso che sia all'avanguardia, e quindi se ritorneremo a lavorare con una certa consistenza sui nostri giovani, io penso che il basket italiano potrà far altro che ritornare al livello che gli sì. è dovuto. Grazie Antonello, buon lavoro. Grazie a voi, buona continuazione. Grazie Antonello Riva, giro questa considerazione al Corso del Monte aggiungendo che mi piacerebbe vedere negli occhi dei giocatori italiani un po' più di rabbia. Mi viene in mente il tuo Zacchetti, tanto per fare un nome. No, ma non facciamo nomi perché i nomi sarebbero tanti, l'elenco sarebbe sì. lunghissimo. È vero, è sacrosanto, che è molto più difficile per un giocatore italiano oggi emergere di fronte a una casistica di presenze di giocatori extracomunitari, come diceva Antonello. Però è altrettanto vero, con lo stesso peso, che oggi il giocatore italiano si è seduto, che si è arreso e sta sfruttando questo numero legale obbligatorio consentito dalle leggi per portare avanti una carriera. Sono due situazioni che devono essere considerate in luoghi diversi perché hanno una matrice diversa, c'è un regolamento uh-huh. e c'è uno status del giocatore italiano. Il giocatore italiano oggi si accontenta, il giocatore italiano oggi ha uno spazio che è legalizzato. È troppo protetto, come dice il tuo collega Boniciolli? No, è esattamente così. Esattamente così. Non sono una persona che rincorre tutte le idee di Boniciolli, malgrado lo apprezzi e quant'altro, ma su questo ha ragione. E quindi di conseguenza bisogna che noi facciamo riflessioni sul numero degli extracomunitari, su come far giocare i giocatori italiani, perché è vero che esistono giovani giocatori che possono dare una mano al nostro campionato, alle nostre squadre, alla nostra nazionale. Ma bisogna che loro ci vengano incontro, tra virgolette, dando dei segnali di fame. O vi vengano contro, perché mi piacerebbe sapere da quanto tempo un giocatore italiano non ti mette in difficoltà. Mi farebbe molto piacere. Mi farebbe molto piacere. Purtroppo, gli ultimi, percentualmente parlando, parliamo di casistiche, gli ultimi giocatori italiani che sono emersi, qualcuno per scelta, programmazione, vedi Treviso uh-huh. è oggi, insieme con Reggio Emilia, secondo me la società migliore da questo punto di vista, ma tanti altri sono emersi per necessità e questa è un po' la tristezza. Certamente. Parliamo, prima di fermarci per la borsa, parliamo con un primo ascoltatore di oggi che chiama dalla provincia di Como ed è Enzo. Buongiorno. Allora, innanzitutto vorrei dire non complimenti alla trasmissione, ma complimenti alla puntata, in quanto sono canturino sfegatato di avere in studio Dal Monte e in collegamento Antonello Riva, per uno che è cresciuto a Pane e Riva, è il massimo. Volevo innanzitutto fare complimenti al coach, perché il suo merito principale a partire dall'anno scorso non è stato tanto quello di portare Cantù ai playoff, che è stato un miracolo assoluto considerando il budget a disposizione della società, ma aver fatto dimenticare a noi tifosi un mostro sacro come Sacripanti, perché i giornali, la prima cosa che hanno scritto all'inizio dello scorso campionato era quello appunto di verificare se Dal Monte fosse stato in grado di amalgamare una squadra nuova, all'inizio una squadra nuova, come era in grado di fare Sacripanti. È uscito benissimo e veramente i miei complimenti più sinceri. L'amore, cosa puoi testimoniare di Cantù nei tuoi confronti, sta in uno striscione comparso in un momento difficile, sì, no? Che ha girato la stagione di Cantù, un momento difficile, prima crisi fisiologica stagionale, subito striscione, Dal Monte non si tocca e da lì la squadra è ripartita. O no, coach? No, assolutamente, ma è un rapporto che è nato sul quotidiano, non ha nessun tipo di artificio strumentale o quant'altro, è nato dall'emotività dell'incontrare delle persone innanzitutto, uh-huh. perché le persone sono determinanti al di là dei ruoli che uno ricopre all'interno di una società piuttosto che di un sistema sociale. Ci siamo parlati, siamo annusati, ci siamo conosciuti, io posso parlare per me, apprezzo tantissimo quello che è il tifo organizzato di Cantù e il tifo in assoluto di Cantù, perché è un tifo passionale che sta vicino alla squadra, che vive la squadra come un evento, ed è molto importante per noi che siamo, tra virgolette, la domenica i protagonisti, sentiamo questa passione, perché poi senza passione si fa fatica a fare le cose e a maggior ragione nel nostro mestiere, per cui è un rapporto per quanto mi riguarda bellissimo, ho avuto delle testimonianze importanti di grande fiducia che ti danno quell'energia quando l'energia la devi andare a scavare un po' veramente in fondo al barile, e per me è stato un passaggio determinante. Vorrei dire, approfitto se ho tempo, certo, innanzitutto che Veroli sta facendo benissimo perché è un grande manager, non a caso Antonello Riva, ma soprattutto anche un bravissimo allenatore che è Andrea Trinchieri. La seconda cosa, vorrei approfittare per, eventualmente qualcuno ci ascoltasse, gli Eagles fanno una raccolta per purtroppo per la situazione in Abruzzo, e vorrei che qualcuno prendesse nota, perché è importante portare qualcosa, perché le parole non servono, servono i fatti, e poi soprattutto perché al di là, come ho già dichiarato stamattina sul giornale, di un piede sopra la tribuna o di, ahimè, uno sfottò verso gli avversari, i nostri tifosi hanno anche un cuore, sono molto altruisti e pensano a una situazione che non è dell'Abruzzo ma deve, certo, essere tutta nostra. Credo che siano molte le tifoserie in Italia, tifoserie organizzate, che stanno lavorando in questa direzione, quindi fate attenzione nel sabato di Pasqua sportivo che ci attende. Palla spicchi. Eccoci tornati, sempre con noi Luca Dal Monte, coach di Cantù, ascoltatore all'800 24 0024. Vi do anche il contatto per i messaggi, 349 238 6666. Coach, vorrei tornare alle parole di Dan Peterson di prima su Mourinho, sulla capacità di comunicare del basket italiano, di voi allenatori, parole dure, anche quelle spese da Bianchini che avrei letto. Cosa ne pensi? Innanzitutto di Mourinho penso che sia un comunicatore pazzesco, con la faccia giusta, i tempi giusti e anche l'intelligenza giusta, però, perché l'intelligenza è quella che fa navigare in mezzo ai paletti di tante cose. Ha il coraggio di dire quello che pensa, ha il coraggio tante volte di dire la verità, cosa che un po' manca in assoluto nella nostra cultura, il coraggio di dire la verità. Quando uno dice la verità sembra sempre quasi che si nasconda dietro qualcosa perché non vuole apparire come viso, in realtà bisogna avere il coraggio di dirlo. E dà un sacco di fastidio. E dà molto fastidio perché chiaramente, ma come nella vita normale, nella vita sociale, chi dice la verità è un po' sempre visto un po' strano, storto. E ha questo coraggio, dice le cose che pensa, che anche questo non deve essere un difetto a mio modo di vedere, quindi io approvo e stimo questo modo di fare. Le parole di Valerio secondo me sono borderline, ai limiti, perché dire le cose che si pensa, dire le cose che uno ritiene giusto, dire la verità non è per forza fare polemica, non è per costituire una frase affinché si faccia polemica, ma è invece dire solo e semplicemente quello com'è, senza strumentalizzare. Oggi noi siamo un po' timidi per certi versi, ma siamo anche prigionieri di questo nuovo sistema che ci impedisce di essere noi stessi quando siamo chiamati in causa, che ci impedisce di essere serenamente onesti e dire le cose che pensiamo, se non altro le cose che riteniamo siano le verità, per cui ci tratteniamo. Credo che sia un po' colpa nostra, anche se poi non dobbiamo mai debordare con la polemica, anzi mai. Un po' è colpa nostra, un po' è anche colpa di chi ci ascolta, tante volte fa finta di non ascoltarci, chi magari dà risalto ad altri aspetti, cioè anche ai nostri interlocutori, che possono essere i nostri dirigenti piuttosto che anche i giornalisti. Quindi c'è una copartecipazione. Noi dovremmo sicuramente avere più coraggio, e spero che senza santificarlo, però il fatto che Mourinho ci possa aprire qualche strada ci deve sicuramente servire. Vedi quanto fastidio dà, però. Quanto fastidio dà, perché non è mal tollerato, chiaramente. Insomma, Mourinho certe volte esagera, qui ha ragione Coach Peterson, perché questo parlare addosso ai colleghi è qualche volta fastidioso, però per me è fastidioso anche il modo in cui nello sport italiano viene accolto uno che dice delle cose. È fastidioso per i malpensanti, ma per una persona che è serena e tranquilla e pensa sempre di aver fatto il meglio possibile da una parte, oppure di essere sempre comportato il meglio possibile da un'altra, chi non ha scheletri negli armadi. Il problema è che tutto ciò ormai è merce rara, per cui tutti abbiamo qualcosa da nascondere, e più abbiamo qualcosa da nascondere più abbiamo paura, e più abbiamo paura più ci dà fastidio, perché abbiamo paura che i NIS poi vengano dentro e i ricci ci vengono a perquisire l'armadio. Quindi viva Mourinho e il suo coraggio della verità, sperando che questo sia, ripeto, non da copiare, attenzione, perché non è da clonare, perché lui rimane unico, ma che ci apra a qualche considerazione in più, a qualche dubbio in più. Casino, un sacco di messaggi che ti chiamano in causa, poi ti rileggo, però abbiamo anche degli ascoltatori con cui parlare. Giovanni da Modena, buongiorno. Molto veloce, buongiorno a tutti. Complimenti al coach, io sono un tifoso della Fortitudo, Bologna. E volevo un suo parere per quello che riguarda la lotta per la retrocessione, perché sono molto preoccupato per la mia squadra. E volevo il suo parere al riguardo. Gliel'avrei chiesto anche io un parere, visti i suoi trascorsi di Luca Dal Monte in Fortitudo. Beh, tanta preoccupazione secondo me è giustificata, perché alla Fortitudo mancano 6 partite, deve pensare sempre di vincerne 2 più di Rieti. Rieti ha un calendario medio, non facile, ma neanche difficilissimo, considerando che la trasferta di Roma potrebbe essere una trasferta molto difficile. Sicuramente Rieti punterà contro di noi il prossimo turno, e poi ha le ultime 2 partite, Ferrari in casa e Udine, credo ormai retrocessa, a Udine l'ultima, per cui il problema della Fortitudo è veramente matematico. Pensare che possa vincere almeno 4 partite su 6 diventa veramente un'impresa. Però purtroppo questi ragazzi devono capire una cosa determinante, che loro hanno provocato questo e loro devono fare di tutto per uscirne. Tanto io stavo leggendo gli sms che ti riguardano. C'è chi da Treviso ti chiede un parere su Dashaun Wood, che tu conosci bene. C'è chi da Ferrara, tua prossima avversaria, e adesso ne parliamo, anche perché è un rapporto meraviglioso con quella città. Grande Dal Monte, al di là dei risultati che comunque lo accompagnano sempre, prima di tutto un uomo vero e poi un grande professionista. Questo lo scrive un signore, Mau, di Ferrara, che ti tiferà contro tra 2 giorni. Ma io ho già vinto, però, perché perché come dicevo prima, quando sei valutato anche al di là del ruolo che occupi per la persona, per me è la priorità. Io fortunatamente ho ricevuto un'educazione e spero di dare la stessa educazione ai miei figli, che prima di tutto vengono le persone, viene il rispetto, viene tutto ciò che è il rispetto, che determina poi tante tante angolazioni, per cui quando sono apprezzato come persona al di là del ruolo vinco sempre. Fabrizio, provincia di Milano, poi andiamo a Brescia. Buongiorno a tutti, complimenti per la trasmissione. Grazie. Un grosso saluto al coach Dal Monte. Dunque, molto brevemente, io sono di Milano, ma sono tifosissimo canturino da praticamente quando sono nato, ero un vecchio amante di Della Fiori e tutto il resto. No, volevo chiedere una cosa importante, quindi non è detto che a Milano ci sia anche qualche canturino. Io ogni anno con Cantù, e questo volevo chiedere al coach Dal Monte, vivo questa ansia di aprire il giornale un giorno a settembre e non trovare più Cantù tra le iscritte al campionato. Il palazzetto non si sa quando lo faranno. Volevo sapere dal coach Dal Monte, che vive più la società, se in realtà comunque c'è un progetto futuro e quantomeno possiamo stare tranquilli a tifare, perché Cantù per me, per tanti tanti ragazzi, tanti adulti anche, è una passione. Questa lo viviamo un po' come un'ansia, giustamente. Dalla passione all'ansia, insomma. Allora, assolutamente, a settembre noi apriamo sempre il giornale, speriamo che ci siano delle notizie positive. Volevo sapere se c'è un progetto e se possiamo stare tranquilli. Glielo chiediamo Fabrizio, grazie a lei, glielo chiediamo. Ammesso che possa citare un paio di, senza cadere nella pubblicità occulta, allora spero che le mie parole facciano effetto più di un Lexotan per l'ansia, perché oggi c'è una proprietà che è solida dal punto di vista mentale, ma solida anche dal punto di vista economico. Il gruppo Cremascoli, che l'anno scorso ha rilevato la società, ha delle idee importanti per il prossimo futuro, quindi la continuità dal punto di vista economico la garantiscono. In più tutto ciò è ancora meglio se si comprerà il prossimo Superbasket, saranno 16 pagine per Cantù, dove proprio il gruppo Cremascoli promette nel prossimo futuro una presenza che darà a Cantù una continuità, e soprattutto perché poi c'è la reale possibilità che il palazzetto ci sarà, e di conseguenza tutto ciò poi prenderà sempre più corpo con la sostanza economica e con l'apertura del nuovo palazzetto. È un segno importante, perché sono 1000 anni che Pianella, lo ricordiamo, negli anni 70, nato come impianto provvisorio, è ancora lì a riempirsi, peraltro. A riempirsi. Poi devo dire che dovremmo fare un trasloco di aria e atmosfera poi nel nuovo, perché credimi, entrare dentro al pianella da avversario, che tu lo vivi, ma entrare dentro al pianella per lavorarci sul quotidiano, e il debutto di entrare con questa veste di nuovo allenatore dei Cantù, sembra che ti cada addosso quell'atmosfera veramente magica che non esiste chiaramente, ma tu la senti dentro, che guardi e vedi queste maglie, vedi questi trofei e dici: mamma mia, adesso mi sveglio. No, è da una sensazione veramente particolare. Ti capisco perfettamente cose. Poi portate anche quelle sedie impagliate, che sono lì da quando ero bambino e giocavo nelle giovanili. Arrivavo lì, c'erano le sedie impagliate di Cantù, che sono sempre rimaste un mito, quelle dei cambi. Sì. Scusa se rido, ma poi noi, questo è bellissimo, che poi abbiamo dei set diversi, per cui tu vedi nella panoramica delle sedie per i giornalisti dei set diversi, per cui c'è una serie di plastica, ma è questo poi che rende il fascino. Se non la portate dietro una alla volta. Perché torniamo seri. Roberto Milano, anzi Silvio Brescia era prenotato da prima. Silvio, buongiorno. Ciao ragazzi, complimenti. Grazie. Volevo chiedere al mister se anche per quest'anno la pratica scudetto è archiviata con la netta superiorità dimostrata dal Montepaschi, e poi se lui ritenga che questa superiorità del Montepaschi finora nettissima sia addebitabile solamente agli investimenti economici che sono stati fatti alla società, o ci siano anche dei meriti da parte del tecnico, da altre componenti di carattere manageriale, e se quando finalmente riusciremo a vedere una lotta per lo scudetto estesa a più squadre. Adesso Luca Dalmonte risponde a patto di non chiamarlo più mister, se no scatta il cartellino rosso. Allora e adesso vado un po' controcorrente. Io credo che Siena possa essere la squadra che può perdere lo scudetto e basta, nessun altro può vincerlo se non che Siena lo perda. Siena non vince perché ha un budget più alto, perché non ha il budget più alto. Siena non vince perché è più forte, Siena vince perché è più brava. È stata più brava a programmare, è stata più brava a creare un gruppo, è stata più brava a pensare e soprattutto è la più brava a giocare. Essere più forti non significa... Essere più forti significa essere chi vince. Essere più bravi è un merito che io riconosco in più. Loro hanno un budget oggi simile ad altre squadre, sono partiti firmando dei giocatori come McIntyre e Sato, che chiunque nel tempo avrebbero potuto firmare, ma non l'hanno fatto. Le scelte, la costruzione di un gruppo, di una solidità, di una programmazione andata avanti. In più, mi permetto di dire, un allenatore che ha fatto negli anni giocare Siena non solo la miglior pallacanestro in Italia, ma anche forse una tra le migliori in Europa. Sì, sì. Bisogna dar atto, è semplice per gli avversari nascondersi dietro a un budget che non è superiore ad altri, è semplice e facile per gli avversari dire che loro sono i più forti. Io credo che loro siano i più bravi e di conseguenza diventano quelli che comandano e che dominano. In più dico, Eurolega a parte, il problema è perdere una sola partita, ma fossero anche due o fossero anche tre, è di una difficoltà pazzesca. Sì. E quindi anche mentalmente, anche proprio di carattere, di orgoglio, di preparazione sulle partite singole, l'essere sempre presente è un merito pazzesco. Vedi, bisogna essere bravi nel firmare McIntyre e Sato, bisogna essere forti nel riuscire a tenerli. Qui questo è il segreto di Pulcinella di Siena. Lavora sullo stesso gruppo da molti anni, ha la forza di tenere i giocatori chiave, ed è l'unica in Italia ad avere la forza di tenere i giocatori chiave. Ed è l'unica, quando è stata chiamata a ricostruire un ciclo, ad avere fortuna. Io credo che la fortuna vada chi se la merita, quindi ha avuto il merito e quindi anche la fortuna di trovare i giocatori giusti al posto giusto, perché i McIntyre, i Sato, gli Eze sono andati a Siena che erano bravi giocatori, oggi sono dei campioni, e quindi c'è merito anche del contesto di Siena, e quindi essere bravi. Palla spicchi. Torniamo con Coach Dalmonte, Coach di Cantù. Prima ho detto giochiamo in anticipo Cantù Siena, quello lo faremo magari nei playoff, giocheremo Ferrara Cantù di domenica tra poco. Roberto Milano, buongiorno. Buongiorno. Dica. In realtà chiamo da Lissone, dove tra l'altro, se posso fare un piccola pubblicità, nel weekend si svolgerà un torneo internazionale juniores molto importante con CSKA, Armani, Maccabi e Fortitudo tra le altre. Quando, a che ora e dove? Cominciamo questa sera a Lissone, provincia di Milano, sì. È ormai la 17ª edizione, anche la squadra di Cantù ha partecipato diversi anni e la finale sarà lunedì pomeriggio, quindi questa sera, sabato tutto il giorno, domenica tutto il giorno e poi a lunedì le finali. Luca, no, no, la considerazione aspetti un attimo, aspetti un attimo che mi ha chiesto la parola al coach. Mi unisco all'invito, tra l'altro io al 99% questa sera sarò per Cesca che gioca contro di voi se non sbaglio, poi ci sarà la Fortitudo contro gli israeliani, giusto? Esatto. Allora, questo per testimonianza del fatto che essendo pronto e perché avevo programmato di venire, no, è vero, è giusto, l'invito lo estendo anch'io perché è una bellissima manifestazione ed è così un modo per vedere dei giovani italiani, ma anche dei giovani promettenti di altre nazioni che probabilmente magari un giorno vedremo anche da più grandi, tra virgolette. Chiedo scusa per l'interruzione. Prego, Roberto. L'aspetto al tavolo, io faccio lo speaker, quindi almeno ci salutiamo. Benissimo. No, volevo solo dire, appunto, parlando di pallacanestro giovanile, se sentivo il discorso che si faceva su Antonello Riva, poteva essere un po' in controtendenza a quello che capita in realtà quando per la prima volta un ragazzo italiano l'anno scorso, 18 anni, è prima scelta dell'NBA, Danilo Gallinari, 19 anni, miglior giocatore dell'Eurolega, e una federazione che investe nel tentativo di portare il mondiale in Italia proprio sulla speranza di questa squadra di giovani che magari nel 2014 potrà essere protagonista. Facciamo solo questa considerazione. Grazie. Grazie a lei. No, credo che ci sia una bella conseguenzialità, credo che l'Italia oggi abbia un plafond di giovani giocatori, meglio, giocatori bravi, ancora in età giovane, che ci potrebbero assicurare una buonissima qualità per i mondiali del 2014, sperando che possano essere organizzati in Italia. Il problema è un altro però, bisogna anche far capire a questi ragazzi che c'è una nazione, un tricolore, una maglia, che è il loro passaporto da difendere, perché se loro per un motivo o per un altro disertano le qualificazioni agli europei, gli europei o quant'altro, allora la domanda va verso un'altra direzione, ma ci saranno loro? Perché questa è una grande colpa che secondo me ci siamo trascinati, ci stiamo trascinando. Io rimango perplesso perché ognuno giustamente fa i suoi interessi, e però poi devi anche render conto, secondo me, a dei doveri. E il dovere per un italiano, il dovere per non per un italiano, per un giocatore con un passaporto, deve essere quello di rispettare i doveri, gli impegni della propria nazionale. Lo fanno tutti, che magari non è neanche la giustificazione primaria, sì. Però lo fanno e noi no. Ma non noi no in due o tre, noi no i ragazzi che giocano nell'NBA in 15, 20, 25, ma c'è una lista molto lunga, anche chi ha il passaporto e dice che non vorrebbe giocare troppe partite. E no, caro, tu hai il passaporto italiano e per questo tu guadagni X piuttosto che Y, e allora vieni a ringraziare la differenza economica giocando per la nazionale italiana. Fa una piega, coach, fa una piega. Abbiamo il tuo avversario in linea, quello di domenica, Giorgio Valli. Buongiorno, ciao. Buongiorno Giorgio. Buongiorno a voi. Come batterai dal monte? A scacchi, lo giochiamo. No, in campo ci vanno i giocatori, speriamo di fare una bella partita, poi ovviamente credo, quando conta, i giocatori faranno la differenza. Comunque una partita mi sembra tra squadre abbastanza felici in questo momento. Noi, parlo per la mia, siamo soddisfatti di dove siamo. Complici ovviamente le ultime tre vittorie, soprattutto un gruppo sano che sta migliorando, quindi siamo contenti, non abbiamo ancora raggiunto l'obiettivo che avevamo prefissato in stagione, però sicuramente siamo più sereni che tre settimane fa. Costa del Monte, come batterai invece Valli? Nella tua Ferrara, in una città che ti adora? No, innanzitutto Ferrara nel frattempo è diventata di Giorgio con merito per la promozione e per il lavoro che sta facendo. Vanno i giocatori, vanno soprattutto le energie, la testa, l'attenzione dei giocatori. Noi credo che fatichiamo per prepararli, li sopportiamo per tanti altri motivi, poi alla fine è più facile che decidano loro piuttosto che altri. Due squadre, come dicevi tu, serene, anch'io parlo chiaramente per la mia, dove noi siamo in una posizione che se l'avessero proposta l'avremmo sicuramente sottoscritta a settembre e poi anche nei mesi successivi. Adesso dico, cerchiamo di non sprecare nelle ultime 5 partite quello che ci siamo costruiti in 25, quindi teniamo duro. Io ho detto che la partita contro Ferrara sarà una trappola perché stanno giocando bene, stanno giocando con grande fiducia, stanno giocando con grande leggerezza anche visto le ultime tre settimane, e non è perché, o non è solo perché Ray, ma perché la struttura di squadra è cresciuta nel tempo, perché qualche giocatore ha preso le misure migliori per il campionato di Serie A, merito alla società, merito a Giorgio per il lavoro che hanno fatto. È una partita difficile perché loro giocano bene, hanno tante cose che ci possono infastidire e vedremo di fare qualcosa anche noi per infastidire loro. Coach Giorgio Valli, Ray è un tassello del mosaico, però è la grande sorpresa, da giocatore svogliato, da giocatore con la faccia sbagliata troppe volte visto a Roma, a un giocatore coinvolto in una realtà come Ferrara. Io non ci avrei scommesso una lira, ti dico la verità. Come hai fatto? Io ci avrei scommesso, ci abbiamo scommesso, intanto saluto e ringrazio Luca. Sicuramente cambia anche il contesto, voglio dire, Ferrara è piccola, Roma è grande, Ferrara ha pochi giocatori, Roma ne ha tanti, noi avevamo bisogno assolutamente di un giocatore così, Roma forse sì, forse no, quindi credo che l'ambiente abbia contribuito molto. Sicuro, e questo posso dire a tutto tondo, che Ray è un ragazzo strepitoso dal punto di vista caratteriale, dal punto di vista dell'atteggiamento nei nostri confronti. Parlo per me, parlo di quello che ha fatto vedere in questi mesi e in più aggiungo che ha un potenziale inespresso ancora incredibile. Per noi è un lusso e un onore avere un giocatore del genere. Grazie coach, buon lavoro. Grazie a voi. Grazie a Giorgio Valli, coach di Ferrara. Io vorrei passare invece a BJ Elder, un altro giocatore di enorme talento e che è secondo me la cartina tornasole di Cantù. Se dico BJ Elder stella intermittenza, tu cosa mi rispondi, coach? Che sono d'accordo, pochi sanno però che al di là di una sicura intermittenza mentale piuttosto che la disabitudine ad avere il suo livello che è alto di talento sempre a portata di mano, BJ soffre di qualche problema, anzi di un problema specifico che va e viene a intermittenza come la sua presenza e la sua performance dentro al campo, che lo condizionano un poco. È un problema che abbiamo cercato di prevenire in estate, l'abbiamo accerchiato, abbiamo avuto qualche risultato, poi purtroppo è un problema che va e che viene e che quindi lo condizionano un poco. Lo condiziona durante la settimana, dove lui, essendo una persona straordinaria, si sforza però di conviverci, dando comunque un buon contributo sul quotidiano, però allo stesso tempo poi mi rendo conto che non è semplice poi trascinarsi così anche la domenica. Io credo che sia un giocatore che tante volte si fa rimpiangere, tante volte anch'io recrimino su quello che non ci dà, poi però per essere onesti sono tante le partite in cui ci ha dato tanto e ci ha permesso anche di vincere, quindi è più il rammarico di non vederlo sempre così, però ha dato comunque un buon contributo globale di media alla nostra stagione. Coach, per chiudere, puoi tornare a trovarci, tanto ti strappo subito la promessa per i playoff, ti aspettiamo di nuovo qui. E c'è questo record strano, no? di cui si leggeva 11-2 contro 11 vittorie, 2 sconfitte contro le squadre che vengono sotto di voi, una vittoria, 10 sconfitte contro le squadre che vi stanno davanti. È grande equilibrio della vostra squadra o è poca faccia tosta secondo te? No, secondo me c'è un problema strutturale. Noi siamo molto atletici, molto rapidi, molto abbastanza verticali come complesso di squadra, ma non siamo tanto pesanti. E chi è sopra di noi spesso è più pesante di noi, e dico potrebbe essere questo. Noi siamo abbastanza spavaldi, ogni tanto io ho le coronarie che volano, e perché abbiamo una tipologia di gioco abbastanza brillante che va ogni tanto al di fuori anche di quello che è il mio pensiero, però che io accetto perché devo dare priorità ai miei giocatori, e non siamo tanto tattici. E quindi tante volte il gap che c'è fra noi e quelle che sono sopra si dovrebbe ricucire con un aspetto tattico di un certo tipo, ma non abbiamo il DNA per fare questo. Io credo che questi sono i due aspetti principali, però devo dire che, volendo essere ottimista e soprattutto positivo, e non posso non esserlo se guardo con serenità la nostra posizione, la nostra stagione fino ad oggi, dico anche che non vedo questo e quello che è successo con le squadre di sopra, ma mi tengo molto stretto con quello che è successo con quello di sotto, nel senso che ecco lì invece tra virgolette sono stati bravi a sprecare il meno possibile le occasioni che si ci presentavano. Parlavo di equilibrio, che parlavo di squadra comunque equilibrata pur nelle sue peculiarità. Coach, ti aspettiamo ancora, eh? Assolutamente sì, perché tanto grazie per essere arrivato oggi. Grazie a voi, perché sono stato veramente molto bene. Grazie Coach Luca Dalmonte, grazie Gigi Borghi per il lavoro in redazione, Peter Bescapè in regia. Ci sentiamo domani alle 17 con lo sport. Come sapete, domani gioca la Serie A e quindi vi racconteremo le partite dalle 17 alle 18. A domani.